A tempo di sport. Dunque torniamo, cari amici ascoltatori, Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia, i risultati scritti che vi abbiamo già raccontato in diretta nella mezz'ora precedente, però li riepilogo con calma. Quelli del pomeriggio naturalmente, quelli maturati nei giorni scorsi in questo maxi spezzatino che trovo abbastanza stucchevole e vagamente insopportabile, non so come la pensate voi, 800240024 se volete dirmelo. Ebbene, Lazio batte Inter 3-1, Chievo-Roma 2-2 sulla discarica del Bentegodi, perché tale è quel campo, perché bisogna dire le cose come stanno. Milan batte Brescia 3-0 nel segno di Ibrahimovic. Oggi pomeriggio il Bologna che vince 2-0 a Cesena, una partita chiave, credo, forse esagero per la stagione dei rossoblù, visto il momento. Gol di Di Vaio al 31esimo del primo tempo, molto bello, diagonale dal limite dell'area, e raddoppio di Britos al 42esimo della ripresa a chiudere questa gara, di cui tra l'altro sta parlando Malesani con Sky. Proviamo a sentire. A mandare la palla nello specchio della porta con una torsione del collo davvero straordinaria. Britos, mi sembra caso. Un bel regalo davvero in un momento del genere per te e per i tifosi del Bologna. Sì. E poi ti volevo dire una cosa. Ma soprattutto... Ti volevo dire una cosa, in un momento del genere i giocatori dimostrano grande capacità di vivere momenti importanti come questo, però poi tutti i giocatori italiani parlano di sciopero. Io volevo sapere da te che ne pensavi, perché noi approfondiremo l'argomento alle 18 poi. Guarda, questo lungo silenzio la dice lunga, la dice lunghissima. No, io penso che non dobbiamo far sciopero, io penso che ci dobbiamo accordare con il buon senso di tutti. Ok, grazie. Così Malesani dunque sull'argomento. Per quanto riguarda gli altri risultati, Fiorentina batte Cagliari 1-0 e torna al gol Mutu, settimo della ripresa, colpo di testa molto bello dell'attaccante rumeno. Quindi il Genoa affonda il Lecce vincendo 3-1, Lecce che era andato in vantaggio in chiusura del primo tempo con Ofere, poi nella ripresa solo rosso-blu, Toni al decimo, Ranocchia al 31esimo e Marco Rossi al 49esimo in pieno tempo di recupero. Nel segno di Hernan Crespo invece, che insomma ha cominciato domenica a San Siro contro l'Inter e non ha ancora smesso, oggi più importanti i gol di Crespo rispetto a quelli di domenica scorsa, perché è andato di 3 punti al Parma. Ebbene, su rigore Hernan Crespo al 24esimo del primo tempo, pareggio di Natale al 35esimo, quindi decimo della ripresa, stavolta di testa su magnifico cross di Angelo, 2-1 per il Parma sull'Udinese e 3-0 della Sampdoria sul Bari. Pazzini su rigore al 17esimo, discutibile il rigore come vi ho raccontato prima. Ben più discutibile l'espulsione di Rossi per doppia ammonizione, della quale la seconda è assolutamente inspiegabile, errore di De Paoli che ha espulso anche Ventura, condizionando così la partita. Eravamo al 32esimo del primo tempo e nella ripresa sono arrivati 2 gol di Guberti, 11esimo con un destro molto bello e 16esimo con un piattone dal limite dell'area. Napoli-Palermo si gioca domani sera, Catania-Juventus è il posticipo di oggi 20:45, oggi all'ora di pranzo se di vuole non c'era nulla, c'era un match di Serie B in realtà è molto importante, Torino-Siena ha finito 1-1, c'era il basket con Siena-Montepaschi invece che ha battuto di goleada 99-67 la Armani-Milano e si è ripresa al primo posto in classifica. La classifica del calcio della Serie A dice Milan 33, Lazio 30, Juventus e Napoli 24, Palermo, Inter, Sampdoria, Roma 23, Genoa 21, Chievo, Udinese 20, Fiorentina 19, Catania, Parma 18, Cagliari 17, Bologna 16, Brescia, Cesena, Lecce 12, Bari 10, ma come sapete è una classifica ancora piena di asterischi. Francesco, provincia di Fermo, Emanuele, provincia di Enna, sono i primi due ascoltatori di oggi. Buonasera Francesco. Buonasera a lei e complimenti sempre per Grazie. La trasmissione. Grazie. Dunque, io in realtà desideravo fare un intervento che riguarda due argomenti. Sì. Adesso se ne è aggiunto uno, anche se inizialmente desideravo parlare dell'Inter, sì. Però parlare di sciopero per coloro che hanno dei contratti un pochino sopra le righe, nel senso che lo sciopero ad accostare al mondo del lavoro in generale, non perché i calciatori non lavorino, sì. E anche per loro quello è un lavoro, però magari sa, i sindacati... il mondo del lavoro magari si rapporta capisco a un qualcosa che è totalmente diverso rispetto a questo mondo del lavoro, che che è fatto soprattutto di zeri in più. Sì. È una mia seconda. Però posso dire, mi permette Francesco, è vero, dal punto di vista dell'immagine più che altro, questa sospensione della giornata, chiamiamola come vogliamo, insomma, rischia di avere un effetto un po' perverso per i calciatori, che possono avere anche le loro ragioni, però dal punto di vista dell'opinione pubblica e dell'immagine sarebbe una sorta di autogol. Assolutamente sì, ma io difendo ancora il gioco, nel senso che sono rimasto un po' all'antica, cioè a noi uomini amanti di calcio piace vedere il calcio in TV, piace sentir parlare di calcio, piace lo sfotto magari domenicale piuttosto che nella settimana lavorativa, e in un momento sociale come questo, dove praticamente il denaro scarseggia a 360 gradi, sentire parlare di sciopero a calciatori che magari ci stanno delle società che non li pagano magari, sì. Poi ci sono altre società che li pagano ma profumatamente. Guarda, secondo io me, penso che però, un attimino ci vuole un po' di buon senso. Dico due cose. Il primo, ribadisco quanto ho detto prima con Fabio Monti, e vorrei anche tornare sull'argomento magari con voi, certamente con gli ospiti che verranno. Io avrei visto bene uno sciopero dei calciatori ieri sera a Verona, cioè se Roma e Chievo si fossero rifiutate di giocare, perché è diritto, è stata una colossale truffa secondo me quella di ieri di Verona, perché la gente paga per vedere il calcio, la gente è pagata nel caso dei calciatori per giocare a calcio, su quel campo non si poteva giocare a calcio, è stata una colossale truffa a mio parere, che passerà sotto silenzio, passerà in cavalleria e si andrà avanti a giocare al limite anche su quei campi che non sono praticabili, perché la realtà è questa. A proposito invece di immagini, stipendi, calciatori eccetera, sa che in America non ci vanno leggeri con l'astensione dal lavoro, anche quando si tratta di sportivi, è una storia molto lunga. Prima citavo il Corriere della Sera e l'articolo di oggi di Domenico Calcagno. Stipendio medio sono a rischio le stagioni dello sport professionistico americano per l'anno prossimo per la stessa ragione italiana, cioè mancato rinnovo dell'accordo collettivo di lavoro. Stipendio medio dei giocatori di basket dell'NBA 5,35 milioni di dollari, quelli dell'hockey media 1,9 milioni di dollari, sto parlando di stipendi medi, quelli del football 770 mila dollari di media, i top players, viene citato Peyton Manning per dare un'idea, 30,8 milioni di dollari a stagione. Lo stipendio medio dei giocatori di Serie A è di 1,2 milioni di euro l'anno, 1,6 milioni di dollari, quindi anche in America stagioni intere a rischio, non una giornata, ma è solo corollario, è solo informazione. Prego. Desideravo dare un mio parere sulla Inter, sull'attuale momento dell'Inter. Sì. Ma io sono tifoso Inter, però sono razionale, analizzo un pochino quelli che sono un po' diciamo i risultati che sono figli della storia della società, nel senso che adesso ancora l'Inter vive di allori, perché tutto ciò che abbiamo goduto ancora permette a questa grande squadra di affrontare adesso il mondialito per club in un modo diciamo diverso, però è chiaro che il problema esiste, è un problema di anni che sono passati, di giocatori da cambiare, è un problema soprattutto si è rotta una macchina che chiaramente fino all'anno scorso era in netta accelerazione, chiamiamolo sì. In questo modo. In questo istante ancora diciamo che le colpe, secondo me, magari potrebbe essere prematuro assegnarle né alla società e né al nuovo allenatore che si è trovato in mano questa macchina in piena accelerazione. Sì. È chiaro che, essendo uno a cui piace giocare a calcio, una macchina però che, Francesco, una macchina che aveva già fatto un sacco di strada, che aveva già fatto diversi chilometri, esatto. Che aveva già raggiunto, per rimanere su questa immagine, che aveva già tagliato tanti traguardi. Tutte cose che però il nuovo pilota sapeva perfettamente quando ha preso il volante di questa macchina. Francesco, io la ringrazio, devo lanciare il traffico, grazie del suo intervento. Poi passerò ad Emanuele, provincia di Enna, Germano, provincia di Torino. Sentiamo anche un po' di voci su questa giornata che è ancora ben lontana dal chiudersi. Traffico. Strade in diretta. A causa di un incidente che ha coinvolto due camion ci sono code sulla A10 Genova Ventimiglia tra Celle Ligure e il bivio per la A6 in direzione Ventimiglia. Per traffico intenso rallentamenti sulla A22 del Brennero tra Trento Centro e Affi in direzione Modena e anche sulla A9 Lainate Como Chiasso verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e la Dogana di Brogeda. Per quanto riguarda il tempo, prudenza perché nevica sulle autostrade tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Strada in diretta torna tra mezz'ora. A tempo di sport. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per gli sms. Donadoni Coscai. Dal di fuori è più diventa complicato e problematico per tutti. Io credo che 6 punti del disaccordo sono quelli che ormai tutti quanti hanno capito. Credo che non ci voglia molto per trovare veramente una via d'uscita e quindi accordarsi. Credo che sia legittimo auspicare una risoluzione in maniera positiva, che forse è voluta da entrambe le parti, cercando di con il buon senso di risolvere un paio di punti che mi sembrano veramente... Si faceva no, sì? Secondo lei, si dopo li racconteremo nel dettaglio i punti che sono ancora in sospeso e oggetto di trattative, ha senso far sciopero in questo momento se non si trova l'accordo? No, dobbiamo innanzitutto cominciare con eliminare la parola sciopero, perché non esiste nessuno sciopero, perché altrimenti sciopero vuol dire non giocare una gara e poi quella cancellarla, mentre la gara poi comunque si andrà a recuperare. Credo che questo sia già un punto importante da focalizzare. Dal nostro punto di vista è uno sciopero, però, perché nel senso che ci si ferma, si incrocia le braccia per un sabato e una domenica, che è la prossima giornata. Siamo alle distinzioni lessicali. Secondo me forse più corretta la definizione di Donadoni, perché la giornata non viene cancellata, come ad esempio in sport americani è successo diverse volte, intere stagioni sono state cancellate per causa sciopero. Ad esempio non si è assegnato una Stanley Cup nell'hockey su ghiaccio, cosa che nemmeno le grandi guerre sono riuscite a fare, ma queste sono altre storie. Quindi abbiamo sentito Malesani e Donadoni 2-0 contro lo sciopero, per motivi e con toni differenti. Emanuele, provincia di Enna, buonasera. Buonasera, signor Genta. Dica. Volevo sapere, per il fatto dell'Inter, perché sta andando male. Prima andava bene e ora sta andando troppo male. Ma che succede per la società? Non so, per l'allenatore, mi dica. le dico, io non ho grandi cose da dirle, perché sta andando male. Prima parlavamo di macchina che ha fatto troppi chilometri, tagliato un sacco di traguardi, è un po' spremuta e forse il nuovo pilota non ci ha capito tantissimo nel funzionamento di questa macchina. È chiaro che la più banale delle ragioni, che per Benitez è la ragione principale, per Moratti può diventare un alibi, sta nei tanti assenti, 6 titolari assenti, tutti giocatori molto pesanti e importanti. È chiaro che in queste assenze una certa percentuale di colpa sarà anche dell'allenatore. Non so dire quanta percentuale di colpa, secondo me nello sport di oggi l'infortunio è un rischio del mestiere, qualcosa di fisiologico. Certo, quelli dell'Inter sono davvero tanti. Probabilmente non ha nemmeno gestito bene, come diceva prima Fabio Monti, le risorse quando i giocatori erano invece a disposizione ad inizio stagione. Insomma, ci sono tante componenti. Io mi limito ad osservare come quest'Inter non abbia nessuna faccia in questo momento. Cioè, non è più l'Inter di Mourinho, perché Benitez ha avuto una gran fretta di smontarla, l'Inter di Mourinho, troppa fretta di smontarla, secondo me, come impianto, come assetto. Non è ancora l'Inter di Benitez, e questo sarebbe impossibile date le assenze che ci sono. Insomma, è una squadra senza faccia, e con questi preoccupanti dubbi va incontro al Mondiale per Club, che potrebbe in caso di mancata vittoria portare ad una sosta di Natale, Capodanno, di grandi ripensamenti e magari anche di grandi cambiamenti all'Inter. Marino, allenatore del Parma con Sky. Hai capito? Va diretto a Marino. Grazie Francesco Cosatti. Massimo Mauro. Sì, è chiaro che di Natale ne ha fatti talmente tanti con lui, gol, quindi. Ma con una certa soddisfazione ha detto, perché non è bastato, non so, il gol di Natale. Non so che cosa abbia detto su di Natale Marino, che ha fatto tanti gol con lui, ma adesso a Crespo, che oggi ha deciso questa partita. Sentiamo ancora. Esterno alto, con grandi risultati dalla metà campo in avanti, no? Sì, sì, l'ho visto fin dall'inizio che aveva questa propensione offensiva e soprattutto è molto bravo a mettere la palla in mezzo, proprio sempre sul primo palo, dove c'è sempre Crespo, ecco, già ha fatto qualcosa come 4 assist, quindi è molto bravo, quindi dobbiamo sfruttare la sua spinta lì sulla fascia. Mario. Dunque, questo Marino abbiamo colto soltanto qualche battuta, cioè che scrive: citare gli stipendi americani senza parlare dei fatturati delle franchigie è un po' fuorviante, e altre cose che non riesco a leggere bene. Sì, è fuorviante, ma perché lo sport americano è gestito secondo, come ben sappiamo, è gestito secondo altri criteri un po' più lungimiranti rispetto a quelli del calcio non solo italiano, perché sappiamo bene come tutti i grandi club europei stiano camminando sul ghiaccio e sotto c'è un lago di debiti. Germano, provincia di Torino, buonasera. Buonasera a lei, Genta. Guardi, io volevo fare una domanda sullo sciopero, ma la risposta me l'ha data un po' Donadone ascoltandolo su Sky, che se è uno sciopero la giornata andrebbe persa. Io direi, sì, piuttosto che questa è una giornata di permesso che prendono i calciatori, no? Sì. Perché come tutti gli scioperi poi la produzione viene persa per una giornata. Sì, ha ragione. No, ma è chiaro che è una questione lessicale e anche legale, insomma. Lo sciopero è quello, non giochiamo e questa giornata non viene recuperata, come si va al lavoro, non c'è lo stipendio per la giornata, non si lavora, la produzione è sospesa. In questo caso si tratta di un rinvio, lei ha ragione. Esatto, e poi mi scusi, riguardo la giornata di oggi, penso che sia più uno spezzatino senza patate, non tanto buono, no? È molto fastidioso. Questa giornata spezzettata così, addirittura solo adesso ho appreso che c'è anche la partita del Palermo domani sera. Sì, sì, sì. Fastidiosissima, fastidiosissima. È record mondiale, Mai nessuno, è record mondiale, mai nessuno era riuscito ad allungare il brodo così tanto. Io penso che è così facendo, secondo me si allontana sempre di più gli spettatori dal calcio, anche televisivo, perché poi le famiglie, cari miei. Sì. Sì, dal venerdì al lunedì sera dobbiamo vedere calcio in televisione. Sa quante litigate con le mogli e le compagne. Specialmente se c'è la televisione solo in casa. Grazie, guardi, io le faccio rispondere, caro Germano dalla provincia di Torino, da un diretto interessato, uno di quei signori che andiamo a vedere giocare la domenica, che ringrazio perché non è facile parlare dopo una sconfitta come quella di ieri sera. Davide Possanzini, giocatore del Brescia. Ciao Davide, grazie. Buonasera, grazie a voi. Senti, ma questo spezzatino a te piace? Venerdì, no. Sabato, domenica, lunedì? Vabbè, tanto d'altronde adesso comandano le televisioni, quindi l'unica, la risorsa più importante di questo calcio, quindi ce la teniamo stretta e accettiamo le decisioni. Sì, su questo sono d'accordo, ma ti piace? A te piace giocare così? Tu hai partecipato anche, no, a un calcio io, in cui si giocava la domenica alle 2:30, insomma. Sinceramente sono cresciuto col vecchio 90° minuto, le partite che si giocano tutte alla stessa ora, sì. L'inverno si anticipava di mezz'ora, quindi io sono legato a quel calcio lì, però... E mi piacerebbe tornare come si faceva allora, so che è impossibile, però. Sì. E quindi accettiamo quello che c'è adesso. Senti, invece la tua personale posizione su questa astensione dal lavoro di domenica prossima? Vabbè, ci sono dei punti dove non siamo d'accordo. È normale che io dico che facciamo bene a fare sciopero, però cioè, sarà la nostra rappresentante che parlerà questa settimana, certo, di nuovo, però io credo che sia giusto perlomeno mantenere quell'accordo che c'era prima, tutto qua. Sì, io invece prima ho detto che mi sarebbe piaciuto vedere uno sciopero ieri sera a Verona, dove si è giocata una partita in condizioni di lavoro inaccettabili, fossi un calciatore. Torniamo al discorso di prima, purtroppo ci sono degli impegni e bisogna rispettare. Il campo di ieri era veramente improponibile. E sono d'accordo con le parole che ha detto Ranieri, che dice che la vittoria più grande ieri sera è quella che tutti i 22 o chi è sceso in campo non si è fatto male. Si è fatto male. Certamente. Veniamo alla partita di ieri sera, Davide, un Milan impressionante visto dal campo, credo. Sì, un Milan impressionante sotto tanti punti di vista. A me quello che mi ha impressionato più di tutti è la compattezza e lo spirito di sacrificio che hanno i giocatori, perché da Robinho a Ibrahimovic, comunque giocatori che uno pensa che siano solo preposti a fare la fase offensiva, facciano solo quello, invece ieri sera ricorrevano tutti, e poi un momento di strepitosa forma, e se dovesse mantenere questo questo tipo di atteggiamento fino a fine campionato sarà veramente dura per tutti. Ma è possibile che basti un giocatore per cambiare l'anima di una squadra? Questo giocatore è naturalmente Ibrahimovic. No, beh, il giocatore è sicuramente importante, anche perché poi fa rendere meglio gli altri. Quando sai che hai davanti uno che ogni volta ti dà la palla e fa qualcosa di determinante, è normale che gli altri si sentono un po' privati di, cioè scrollati via di responsabilità. In più sai che quando butti la palla davanti c'è questo qua che fa veramente paura. Veniamo al Brescia, Davide. È vero che avete regalato molto ieri al Milan, eh? L'ha detto Maifredi alla fine della partita, sì. Ha avuto modo di parlargli, cose così è difficile vederle due volte in una stagione, ha detto Maifredi. No, beh, ieri sicuramente siamo entrati un po', non dico intimoriti, però quando vai a affrontare una squadra che è in quelle condizioni di salute è difficile. Poi è normale, abbiamo preso gol al terzo minuto e da lì è diventata veramente dura, anche se poi aveva avuto 10 minuti che avevamo reagito bene, avevamo avuto un'ottima occasione con Caracci. Poi però le grandi squadre sono così, quando vai a San Siro devi sperare di non prendere gol prima mezz'ora, perché sennò esatto. Poi diventa veramente dura. Ieri è stata così. Questo è verissimo, ma i problemi del Brescia secondo te dove stanno? Ci sono problemi del Brescia? Beh, 2 punti in 10 partite, ci sono. Dove non sono? Non è facile individuarli tutti, anche perché visto tutti i risultati che abbiamo fatto, questo filotto di non risultati è dura, però uno di quelli secondo me è quello che non dobbiamo pensare più che altro alla partita di ieri, perché ovviamente il Milan fa parte del nostro campionato, ma non è il nostro campionato. Dobbiamo pensare più che altro a gestire magari meglio altre partite dove avevamo visto che non potevamo vincere, ma dovevamo riuscire a non perdere. Invece abbiamo perso scontri diretti importanti con Lecce, col Bologna, col Parma, quindi quelli sono punti pesanti. Senti Davide, ti chiedo ancora questo: con l'Inter invece avete fatto risultato, se non ricordo male. Sì, però con l'Inter siamo stati fortunati, perché sai, nel corso della stagione bisogna essere fortunati a incontrare le squadre in momenti che non sono in forma. Abbiamo avuto la sfortuna di beccare il Milan in gran forma, abbiamo avuto la fortuna di beccare l'Inter non in forma, quindi quella è stata la nostra fortuna. Poi è normale che ci siano anche grossi meriti, perché a Milano contro l'Inter avevamo fatto un'ottima prestazione. Sì, e magari meritavate anche qualcosa di più di quel pareggio che avete portato a casa. Assolutamente sì, però poi a fine campionato si compensa tutto. Sì, ma non so l'Inter a fine campionato se sarà dove è stata negli ultimi anni, però, cioè da prima. Sarà dura, anche perché la lista di infortunati è tanta, poi subentra anche un po' di insicurezza, con tutte quelle sicurezze e certezze che avevano gli altri anni, quest'anno adesso con i non risultati e con tutti questi infortuni un po' ti vengono a mancare, però ai giocatori quando rientreranno faranno sicuramente la grande e lotteranno comunque fino alla fine. Senti, ne approfitto, un'ultima cosa per chiederti da professionista, questa questione degli infortunati, il calcio come lo si gioca oggi? L'altro giorno parlavo con Matteo Bonicioli, allenatore dell'Automatica Roma, e dice lo sport a questi livelli fa male, è qualcosa di estremamente pericoloso. Mi viene in mente Ancelotti che dice lo sportivo professionista non è comunque una persona sana, non è quello che va a fare una corsa nel parco. È vero che siamo al limite fisico? Sì, io penso di... sono d'accordo con questo, perché oltre allo stress fisico c'è lo stress mentale che al giorno d'oggi è veramente portato a livelli massimi, in virtù di cosa è diventato il calcio in Italia e comunque lo sport a questi livelli. Grazie Davide, bocca al lupo, un abbraccio. Grazie a voi, buona serata, grazie mille. Un abbraccio a Davide Possanzini, ci fermiamo adesso un attimo, subito dopo... pausa, pubblicità, meteo, eccetera. Riprenderemo a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde. Forse già sai che in Trentino esiste una città di nome Rovereto. Quello che non sai è che le cose che accadono a Rovereto accadono solo a Rovereto, come la mostra di Modigliani al Mart dal 18 dicembre al 27 marzo e il mercatino del Natale dei Popoli dal 27 novembre al 2 gennaio. Rovereto, mai perderla di visita. Palleggio frenetico, passaggio corto, palla che schizza a destra, a sinistra, in alto, no, in basso, fallaccio. La palla vola, finta di corpo, all'ala, al petto, magico recupero a centrocampo. L'ha recuperata, ma dove va? Dove va? Credit Reforma, con più di un secolo di esperienza, recupera i tuoi crediti nel mondo con efficacia, velocità e talento. Chiama il numero verde 800 425 325 oppure collegati a creditreform.it. Quando Credit Reforma entra in azione, non perde mai la palla. Dal mondo dell'economia aprono in leggero rialzo i mercati finanziari, bene i tecnologici, ma soprattutto Marco ha alzato l'indice e ha fatto un sorriso. Sono queste le azioni che valgono di più, perché la ricerca è il miglior investimento per il futuro. BNL per Telethon, nella lotta contro le malattie genetiche rare. Il 17 e il 18 dicembre ti aspettiamo con un'apertura straordinaria presso le nostre filiali. Versa il tuo contributo. BNL Gruppo BNP Paribas, la banca per un mondo che cambia. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Per domani si prevede cielo in prevalenza molto nuvoloso sulle regioni del centro-nord, mentre all'estremo sud e sulle isole la nuvolosità sarà più variabile e a tratti vi potrà essere qualche schiarita. Possibilità di alcune piogge sparse, specialmente su Lombardia, Liguria di Levante e regioni di nord-est. La neve si porterà soltanto a quote di montagna, mentre in pianura le precipitazioni si trasformeranno in pioggia. Qualche pioggia isolata sarà possibile anche sul Lazio, sulla Toscana, nel nord della Puglia. Venti tesi, meridionali su tutti i mari, temperature in aumento, anche sensibile su quasi tutte le regioni. Per il meteo è tutto, altri dettagli sul sito meteo.it. Sembrate soddisfatti? Ah, siamo in perfetta sintonia. Eh sì, lei è contenta di avere Esso Energy e Diesel. Mantiene il motore pulito e protetto dalla corrosione e può migliorare accensione e prestazioni. E cosa fa felice te? Il doppio dei punti Esso Extras ad ogni rifornimento. Alla Esso ci impegniamo per darti il meglio. Goditi una guida migliore e ricevi il doppio dei punti Esso Extras con Energy e Diesel. Regolamento Esso Extras ed elenco delle stazioni partecipanti con Energy e Diesel consultabili su essoextras.com. Regali di Natale? No, non ne voglio parlare. Ogni anno si spendono un sacco di soldi e non si sa mai cosa regalare. E se le dico Foppa Pedretti? Regali utili, funzionali, tutti in legno e costano meno di quello che pensa. Foppa Pedretti? Parliamone! Gamma Citroën approvata a quattro ruote. Euro 5, ESP, 5 anni di garanzia e al quarto anno in Citroën, valutazione del 10% in più sulla quotazione quattro ruote. E adesso il tuo usato vale il 10% in più. Se ne è parlato così tanto che abbiamo deciso di prolungare l'operazione approvata a quattro ruote anche per il mese di dicembre. Scopri 18 modelli della gamma Citroën approvata a quattro ruote. Prezzi bloccati fino al 31 dicembre. Info su citroen.it. A tempo di sport. Parlando Sinisa Mihajlovic con Sky. Dobbiamo migliorare, dobbiamo essere più cattivi davanti a porta, però è importante trovarsi in quelle situazioni. Poi dopo ci arriva pure la tranquillità e cattiveria di chiuderle. Ilaria. Mario, sei soddisfatto? Questo oggi? era Mihajlovic, finalmente ho capito perché è stato annullato quel meraviglioso gol di Donadel. Sarebbe stato il gol del 2-0 con un destro al volo da oltre 25 metri, secondo me fuori gioco di posizione attiva di Mutu, che si è scansato per evitare quella castagna di Donadel. Un peccato però che questo gol, semplicemente perché era davvero stupendo, sia stato cancellato dal tabellino. Ancora Mihajlovic? Non ho capito, scusami. Io dico, non lo so se era in linea con la palla proprio, poi lui è andato a saltare. Lui, secondo me quello di questo che gol dire, è questa l'immagine, cioè un'immagine di questo gol non convalidato. E il giocatore della Fiorentina non copre l'immagine del portiere? Cioè, secondo me non è in gioco. È gol. Sì, è sulla traiettoria del tiro, che ha un effetto molto liftato, non copre la visuale del portiere, la palla passa vicino a quella del giocatore in posizione irregolare. Insomma, non saprei, sono dettagli, in fondo era comunque un gol non decisivo perché eravamo già sul 1-0, che poi è stato il risultato finale della partita. Appunto, dispiace che il gol davvero straordinario con questo destro al volo di Donadel su respinta di pugno del portiere del Cagliari. Massimo da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io dico solo una cosa, io faccio sport da una vita, 40 anni, non tipo Inter. Quindi predico che in questo momento Moratti deve essere un uomo di sport, perché praticamente ha una squadra stressata. Sì. Recuperare atleti dopo anni così è difficile, io dico che alleno persone, quindi lui deve fare l'uomo di sport. C'è una persona che è una bella persona come Benitez, deve appoggiare Benitez in tutti i modi, sì, in modo che piano piano recupera la squadra con gli essi nuovi il prossimo anno. Deve fare un atto di fede, secondo me. Ma lei sa, Massimo, quando si mettono così tanti soldi e si è in fondo tifosi, non basta tanto che uno sia una brava persona, eccetera. O la fiducia o ce l'hai o non ce l'hai, non c'è nulla da fare. Morazzi deve fare spalle grosse e difende l'allenatore, perché chiunque ci va dopo un anno come Mourinho, che aveva una squadra stressata e l'ha gestita in un modo perfetto. Io sono tifoso della Roma, l'ha gestita in un modo perfetto col contagocce. È scappato sapendo che la squadra era al contagocce, proprio. Però Benitez lo sapeva perfettamente. Dirlo adesso non vale più di tanto, quantomeno non vale come argomento a sua discolpa. Insomma, Benitez sapeva perfettamente che, grazie intanto Massimo, sapeva perfettamente che la squadra era reduce in generale, perché l'ha ricordato lui stesso, 25 anni che fa l'allenatore di calcio ad alto livello. Era facilmente immaginabile che la squadra fosse al lumicino come forze, energie, risorse, e sapeva tutto questo perfettamente nel momento in cui ha accettato l'incarico. Cosa sta dicendo Mihajlovic? Però comunque le cose che chiedono, secondo me, se come lo so io, spero che non si faccia sciopero, però io sono la parte dei calciatori. Va bene, grazie. Quindi questa è la posizione di Sinisa Mihajlovic sullo sciopero. E un'altra cosa sull'Inter, se me la permettete. Benitez sapeva quello cui andava incontro, doveva sapere quello cui andava incontro. È anche vero, ne abbiamo parlato anche ieri con Marco Ansaldo, che prendere Benitez, che è uno molto bravo, ha un'organizzazione molto capillare, come ben sapete, di osservatori, di gente che gli dava una mano, gli scovava i giocatori. È stato molto bravo per anni Benitez al Liverpool, ha fatto un grandissimo lavoro al Liverpool, e lo sapete bene anche voi, proprio andando a cercare e valorizzando giocatori prima che ci arrivassero altri. Se lo prendi per fare un mestiere diverso da quello per il quale ha dimostrato di essere davvero un grande allenatore, beh, allora ci si può domandare se non valeva la pena magari pigliarne un altro, no? O se non era magari più funzionale all'Inter un altro tipo, un'altra figura professionale, un altro tipo di allenatore, perché prendere uno che è bravo a scovare i giocatori, ad assemblare squadre con giocatori funzionali alle sue caratteristiche, al suo gioco, e poi non permettergli di farlo, allora può essere fuorviante, diciamo così. Sta parlando Semeraro, presidente del Lecce, non so se ha fatto due gol. Tornerà se a mettere in discussione De Canio. La partita probabilmente finiva lì. Peccato, perché abbiamo fatto una partita attenta e non abbiamo concesso praticamente nulla. Vanessa, Leonardi. Eppure abbiamo perso 3-1. Ilaria, io volevo riallacciarmi anche a quello che dicevi tu, per capire se magari questa settimana, che è stata sicuramente una settimana intensa non solo per le dimissioni di De Canio, ma anche per quanto accaduto a Diamutane, se in qualche modo secondo lei può aver influito sulla partita, sui giocatori. Beh, io speravo che ne uscisse una reazione positiva, però purtroppo i nostri problemi sono questi, li evidenziamo in ogni partita, quindi dobbiamo cercare di risolverli per cercare di salvare questa stagione, perché è molto importante. State valutando questo anche De Canio, visto che lei ha detto, insomma, vediamo se torna in discussione De Canio. State valutando anche per gennaio magari qualche rinforzo, capire dove. Oggi su 3 gol 2 sono arrivati da palle inattive, quindi probabilmente ci sono dei problemi. Assolutamente sì, ma è già un mese che stiamo lavorando sui rinforzi che dovranno arrivare a gennaio, sicuramente qualcosa in difesa per cercare di puntellare questa difesa, e poi vediamo, anche perché dobbiamo fare anche qualcosa in uscita. Grazie. Questa è la situazione del Lecce, dunque si va al mercato e si tiene De Canio, mi pare di aver capito. Mi pare anche di aver capito, stando alle dichiarazioni che sto leggendo di Mino Raiola, che Balotelli resterà a City a lungo. Balotelli ha bisogno di fare un processo importante, è andato al City, resterà per qualche anno. È impossibile che venga al Milan a giugno, quasi impossibile. È impossibile che venga al Milan a giugno, quasi impossibile, le dichiarazioni tra virgolette di Mino Raiola. È andato al City per forte volontà di Mancini, deve ringraziare la sua fiducia, ma ora Mario sta conquistando anche gli altri a Manchester. Il destino di Mario non dipende da Mancini. Galliani e Mira Balotelli, gli piaceva anche quando era all'Inter, io ne ho parlato col Milan quando l'Inter lo voleva vendere, ha detto Raiola. Alla domanda se esclude un ritorno all'Inter, Raiola ha risposto no, assolutamente, con l'Inter e Moratti non ci sono problemi. Dunque questo l'agente di Mario Balotelli. Andiamo a Firenze, di nuovo a Firenze, prima di Mauro da Roma. Ubaldo Cianciulli, buonasera. Ciao Carlo, buonasera. Guarita la Fiorentina? Ma diciamo in via di guarigione il tunnel incomincia a essere alle spalle, Mihalovic ha detto che comincia a essere soddisfatto, però diciamo che ci sono ancora un po' di problemi, soprattutto per quello che riguarda la capacità della squadra di riuscire a chiudere la partita. Abbiamo visto anche oggi la Fiorentina fino all'ultimo ha sofferto perché non è riuscita a mettere dentro la seconda rete con il Cagliari. È vero che ben tre reti sono state annullate questa sera, quella di Donadello l'abbiamo vista, quel gran tiro da fuori nel primo tempo, Mutu di tacco aveva segnato ed è stato annullato per fuorigioco, nella ripresa lo stesso Ljajic, un altro gol annullato, però effettivamente manca ancora un po' di determinazione. Sicuramente lì Mutu, aspetta che lo sentiamo insieme. Di star bene fisicamente, perché non era facile rientrare dopo 9 mesi. Piano piano sta andando tutto bene, quindi sono felice soprattutto per la vittoria, per questi 3 punti importantissimi, per questa vittoria che avevamo bisogno come dell'acqua, come si dice. Speri di stare bene fisicamente, quindi ci garantisci che dal punto di vista psicologico invece sei in formissima? Beh, quello sì, quello nonostante tutto. Forse una delle mie qualità che riesco ad andare avanti anche quando le cose non sono messe tanto bene per me, quindi è una forza che ce l'ho dentro da piccolo, diciamo. Ilaria. Sì, se evita di assumere sostanze illecite, se evita magari anche di muovere le mani a sproposito, Mutu è e resta, credo, un giocatore determinante per la Fiorentina. Indubbiamente per la Fiorentina, e diciamo che l'auspicio della Fiorentina è che questo 2010 che sta per terminare dovrebbe essere effettivamente, diciamo, il 2011 non dovrebbe andare peggio nel 2010, tanto per non essere, insomma, per essere scaramantici, perché effettivamente questo è stato un anno solare, il peggiore della gestione della Valle, e nel 2011 la Fiorentina dovrà poter contare anche intanto sulla ripresa in toto di Adrian Mutu, ma soprattutto sul rientro anche di metà squadra. Oggi praticamente mancava l'intera difesa, mancava Comotto, mancava Felipe, mancava Krodrup, tutti squalificati, addirittura esordito nella ripresa Piccini, un giocatore della primavera di 18 anni, il nonno, diciamo così, della situazione era Gamberini, nazionale Gamberini, a fianco aveva altri due giocatori piuttosto giovani. Dovrà poter contare la Fiorentina anche sui rientri di Montolivo e di Frey, quindi insomma, se Mihalovic riesce ad avere gli uomini a disposizione, effettivamente la Fiorentina potrebbe iniziare a uscire talmente dal tunnel e buttarsi alle spalle un periodo veramente veramente nero. Il Cagliari, c'è da dire che ha giochicchiato nel primo tempo un po' come la Fiorentina, nella ripresa dopo il gol ha cercato di venire fuori con qualche contropiede, ha messo in difficoltà Boruz, che comunque si è distinto ed è riuscito a far mantenere per la quarta partita su 5 giocate in casa la propria porta inviolata, e questo è anche un altro bel risultato per il portiere polacco, che è secondo a mio parere è il miglior secondo portiere del campionato, Boruk. Ti ringrazio Ubaldo, devo correre invece, prima che da Mauro, da Emilio Buttaro a Cesena, perché dovrebbe essere con un ospite. Emilio. Sì, grazie Carlo, infatti proprio così, sono in compagnia del direttore sportivo del Bologna, Carmine Longo, e il Bologna oggi ha battuto il Cesena per 2-0, è stata la vittoria del cuore, ma adesso c'è una settimana davvero importante a livello societario, direttore. Sicuramente prima c'è il recupero con il Chievo, poi c'è da risolvere i problemi dell'azienda, perché potremmo trovarci in presenza della messa in mora e con tutte le conseguenze che ne derivano. Ecco, ha detto una cosa molto importante, proprio adesso potremo trovarci in presenza della messa in mora, infatti proprio nelle ultime ore circolava questa ipotesi, dopo la partita col Chievo effettivamente i giocatori del Bologna potrebbero mettere in mora la società, è così direttore dunque? Avrebbero già potuto farlo, stanno pazientando perché a noi dispiace lasciare il lavoro incompiuto, però dinanzi a certe scadenze non si può fare a meno di farlo, perché si chiudono le possibilità di andare a lavorare altrove, perché entro il 30 di gennaio o 31 gennaio è il periodo di competenza e la data utile FIFA, quindi poi lo svincolo non serve più. Ecco, a Bologna circolano in questi giorni tantissime voci, i tifosi si sono uniti alla squadra e oggi ce n'erano più di 2000 qui allo stadio Manuzzi di Cesena. A suo avviso, direttore, quali scenari potrebbero aprirsi riguardo eventuali possibili cambi ai vertici societari? No, i cambi al vertice societario ci dovranno per forza di cose essere, per quanto riguarda i tifosi, come i calciatori, dicevo in settimana, sono la parte buona della, dell'ambiente calcio di Bologna. Non penso e mi auguro che la città di Bologna sia superiore a tutte queste voci, a tutte queste diatribe da cortile. Io ringrazio Emilio Buttaro con il suo ospite. Più che diatribe da cortile, qui ci sono, c'è una società in alto mare, ci sono degli stipendi da pagare, ci sono giocatori che potrebbero mettere in mora il club e mi risulta ci siano anche possibili acquirenti. Uno di questi potrebbe essere avanzato un'offerta poi respinta, Sabatini, patrono della Virtus Bologna. Ci fermiamo per il traffico e poi torniamo con Mauro da Roma. Strade in diretta. A causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante, al momento chiusa l'autosole tra gli svincoli di Ponte Corvo e Ceprano in direzione della capitale. Di conseguenza si stanno formando code in prossimità del blocco. Per un altro incidente che ha coinvolto due camion, code sull'A10 Genova Ventimiglia, tra Celle Ligure e il bivio per la A6 in direzione Ventimiglia. Per traffico intenso si rallenta sulla A22 del Brennero tra Trento Centro e Affi in direzione Modena e sul tratto urbano della A4 tra gli svincoli di Sesto San Giovanni e Viale Certosa in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda il tempo, prudenza perché nevica sulle autostrade tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Strade in diretta torna tra mezz'ora. Promo 24. Ogni azienda deve avere un partner per accrescere le competenze del management e il valore dell'impresa. Per questo, più di 13.000 imprese e 75.000 dirigenti hanno già scelto Fondirigenti. Fondirigenti è innovazione e sviluppo con il conto formazione e gli avvisi in corso. E se l'impresa ha fino a 3 dirigenti, c'è Conto Formazione 24, che prevede l'approvazione del piano direttamente online e in un giorno. Fondirigenti offre anche il bilancio di competenze, un assessment completo per la definizione del proprio piano di sviluppo professionale. Mentre chi è inoccupato può contare sul GSR Fasi, che lo supporterà nel percorso di placement. Fondirigenti, il fondo di Confindustria e Federmanager. Aderire non costa nulla. Le informazioni su www.fondirigenti.it. A tempo di sport. Ecco finalmente Mauro da Roma, buonasera. Buonasera. Vorrei chiedere un parere. Sì. La ritengo assolutamente competente, l'ascolto sempre. Grazie. A proposito di Ibrahimovic, da più parti si dice che in Italia è determinante, che è mezza squadra e in campo europeo non lo è. Anche l'esperienza a Barcellona è stata assolutamente negativa. Il motivo, al di là di questo luogo comune, è un motivo tecnico, un motivo caratteriale, perché il campionato italiano è più difficile, notoriamente più difficile che c'è. Sì. Come mai non riesce a fare quello che fa l'Italia in campo europeo o in Barcellona? Era una, se mi può dare questa spiegazione. Ma grazie. Secondo me, ma grazie a lei Mauro, a me la domanda non è semplicissima. Secondo me il Barcellona non era la squadra adatta per Ibrahimovic, che è un giocatore estremamente particolare. Così come un giocatore estremamente particolare è Messi, perché io ho una fissa. Chiaramente il giocatore più forte del mondo, è uno spettacolo per gli occhi vedere Messi, ma vedere Messi nel Barcellona, sarei molto curioso di vedere, cosa che magari non si verificherà mai, Messi in un'altra squadra che giochi in una maniera diversa. Non dimentichiamo che Messi è un prodotto del settore giovanile del Barcellona, perché è andato a giocare lì che aveva 13 anni, quindi è cresciuto con tutti quelli giocando quel calcio non replicabile in nessun altro club e in nessun altro luogo del mondo attualmente, perché è qualcosa che ha radici profonde. In quella squadra Ibrahimovic era grosso modo un intruso, veniva utilizzato come punta di sfondamento, si faceva di Ibrahimovic l'uso che si può fare di un centravanti tattico, di quelli che fanno a sportellate e fanno le sponde di testa. Ibrahimovic non è questo tipo di giocatore, è un giocatore intorno al quale è opportuno ed è intelligente, come ha fatto Allegri, cucire una squadra, cioè creare una squadra che metta Ibrahimovic nelle condizioni di fare la differenza come è in grado di fare, e ci sono talmente tante prove che è inutile sottolinearle nel campionato italiano. Il Milan ha fatto così, ha messo il grande capo al centro dell'attacco, il grande capo ha rivitalizzato l'intera squadra, perché basta guardare in faccia, prima ancora che sul campo, gente come Gattuso, Ambrosini, Pirlo, gente che è lì da millenni, che era stremata dalle troppe vittorie, forse anche dalla routine rossonera. Ebbene, Ibrahimovic, con l'intelligenza di Allegri che gli ha cucito addosso questo Milan, riesce a fare da solo la differenza nel campionato italiano. In Europa questa filosofia, e nelle grandi partite contro grandi avversari, questa filosofia non sempre può pagare. Lì bisognerebbe riuscire a cambiare pelle, a trasformare Ibrahimovic da elemento essenziale in valore aggiunto. Questa, non so se mi sono spiegato, ma questa è l'idea che mi sono fatto su Zlatan Ibrahimovic. Poi molto spesso e più in ogni altro settore della vita, nel calcio decidono le stelle, quindi magari Ibrahimovic segnerà un gol importante a un grande avversario di Champions League e crollerà quest'ultimo muro. Intanto saluto e ringrazio Giuseppe Di Piazza, direttore di 7, in Sede Corriere della Sera. Buonasera direttore. Buonasera. Non so se sono riuscito a spiegarmi su Ibrahimovic. No, sicuramente bene, molto, con molta proprietà. No, ma non, è una mia idea, è difficile dire, ma perché Ibrahimovic vince i campionati da solo e poi quando gioca le grandi partite sparisce? Non lo so. Ma è un personaggio con una, diciamo, un problema di carattere molto importante, però capace di grandi cose e di minime cose. Sì. Sono d'accordo. Direttore, tra una settimana potremmo forse usare il weekend per lo shopping di Natale o per andare al cinema. Non ci credo. Neanch'io, però aggiungo anche che fossi stato nei giocatori della sua Roma e in quelli del Chievo, ieri io mi sarei rifiutato di giocare con un gesto magari molto teatrale, però anche molto evidente, su quel campo di Verona che è una discarica, non è un campo da calcio, e io credo che sia diritto dei giocatori avere un ambiente di lavoro, un luogo di lavoro consono. È diritto dei giocatori e di chi paga il biglietto e chi paga l'abbonamento per le pay tv. Non si può giocare su quel campo, quello sarebbe stato un gesto condivisibile. Sì, sono d'accordo, se ne è discusso anche nel prepartita, perché guardavo la diretta su Sky, ne ha parlato anche Pradei, ma è una decisione poi che va presa secondo regolamento. Lì sì. Il vero problema è che limitarsi a dire che il pallone debba rimbalzare è troppo poco, perché certe volte può rimbalzare anche sulla sabbia indurita, però sì. Quello veramente era un campo indecente, non da spettacolo europeo, non da spettacolo di prima fascia. Sì. In Inghilterra non si può iniziare queste cose, lì piove un po' di più che da noi. Sì, un pochino. Perché la Roma non riesce a vivere normalmente? Prima la depressione, poi la prima grande cavalcata stagionale, poi qualche bisticcio e la frenata. E perché non si riesce a vivere normalmente? Io sono convinto che risieda tutto nella incertezza che viene colta dalla squadra per quanto riguarda la proprietà. Sì. Una squadra che non ha un proprietario certo, che è in questo momento transitoriamente nelle mani di una banca affidata a Rosella Sensi come custode, ma insomma senza veri poteri operativi, è tutto un po' troppo strano. Quindi è una grande squadra che manca in questo momento di una leadership chiara. C'è una leadership tecnica, che è quella di Ranieri, ma insomma non basta, secondo me. Poi i calciatori in questo devono sentire di far parte di un grande progetto, di una grande società, di una società che può investire, scommettere e punire anche se è il caso. Questa è una società che per ora non c'è, insomma. Quindi secondo me il campionato della Roma è destinato a questo andamento un po' sclerotico? Un po' altalenante sì. L'anno scorso si è fatto un enorme sforzo, sapendo delle incertezze societarie, sapendo anche l'anno scorso, perché però l'anno scorso ancora c'era una perdenza, si è giocati un po' tutti con il coltello fra i denti per dimostrare che l'orgoglio c'era, la voglia pure, la grande rincorsa, poi buttare tutto a mare con la Sampdoria, vabbè, peccato. Quest'anno io credo che un secondo sforzo in questo caos ancora non si può chiedere. Sono calciatori che si sono visti anche duplicare, triplicare nel ruolo, non è stato chiaro nemmeno la campagna acquisti. Insomma, io ho un po' di dubbi su tutto, però credo che lì sia necessaria una guida chiara. Sì. Deve essere anche abbastanza difficile, aspettando una guida chiara, vedere sull'altra riva del Tevere l'aquila che vola. Ma no, loro hanno una bellissima squadra, la Lazio si sta comportando molto bene, io ho una profonda stima per il loro presidente, un uomo che ha saputo spezzare alcuni bruttissimi circoli viziosi che c'erano intorno alla Lazio. Lui è stato molto duro, è un uomo che ha rischiato in proprio, che ha vissuto e vive sotto scorta, però insomma, ha fatto un gran lavoro. Ti chiedo ancora questo, oltre la siepe dello sciopero, non so se non ci sarà il buio, ma ci sarà la partita cruciale per la Roma, Milan-Roma a San Siro. Milan-Roma, prima c'è Cluj fuori, cioè ci sono un po' di impegni importanti. Cruciale, sai, se si è a 10 punti dalla vetta è difficile essere cruciali poi in campionato, mentre andare fuori al primo turno di Champions c'è un danno economico diretto, soprattutto con una fragilità societaria di cui parlavamo prima, che insomma potrebbe essere poi alla fine pagato. Sicuro. Ma sull'Inter che idea si è fatto? L'Inter mi è sembrata una Inter che non ha più la carica, vabbè, tutto quello che si è scritto in questi giorni è tutto vero. Poi Benitez lo stimo come tecnico, secondo me è un grande professore di calcio, non ha le caratteristiche umane e agonistiche di Mourinho, quindi la squadra che è stata spremuta lo scorso anno, quest'anno si trova a dover correre una gara con un leader differente e con un Balotelli di meno. Certo. Balotelli buttato in campo a 15 minuti alla fine era capace di risolvere, come ha risolto molte partite. Certo. Qui quando si gioca con mille infortuni, con Diabiani titolare, con poi il piccolo Coutinho, deliziosi calciatori, ma che avrebbero meritato i 15 minuti, 20 minuti finali di una partita serena per potersi piano piano inserire, sono stati buttati in prima linea. Sì, insomma, sì. Un po' questo lo sta pagando l'Inter. Condivisibile, condivisibile. Grazie direttore, alla prossima. Grazie, buon grazie lavoro. A voi. Grazie, Giuseppe Di Piazza, direttore di 7. Facciamo tempo a sentire Di Vaio, ex laziale peraltro. In questo momento. No, mi piace sfatare con lei proprio un. Non riusciamo a sentire Di Vaio perché dobbiamo lanciare il giornale radio, però oggi ha fatto un altro gol straordinario questo giocatore. Dopo il giornale radio però torniamo qui, abbiamo ancora un'ora per stare insieme, 800 24 00 24, mi sembra che i temi siano tanti di cui discutere insieme, anche perché domenica prossima chissà che temi avremo, chissà anche se ci saremo, penso di sì, sciopero permettendo saremo qui, a dopo! A tempo di sport! Ecco che torniamo, 800 24 0024 per intervenire a tempo di sport sulle partite di oggi, su quelle di ieri, su quella dell'altro ieri, la sconfitta dell'Inter secondo me fuori dai giochi scudetto già da ora, guardando il Milan, guardando i tanti punti di distacco che potrebbero diventare ancora di più, anche se come effetto ottico della sosta che l'Inter osserverà in campionato per andarsi a giocare un mondiale per club che sarà determinante per capire il 2011 dell'Inter, per capire se nel 2011 dell'Inter ci sarà ancora Benitez, per capire un sacco di cose. Fatto sta che a mio parere l'Inter è fuori dai giri scudetto e questa potrebbe essere la prima vera notizia, forse anche definitiva, della stagione. C'è Mutu che oggi è tornato al gol e che ha detto che vorrebbe migliorare anche come persona, sarebbe ora. Come dicevo prima, un grande giocatore lo è sempre stato, con qualche limite caratteriale, diciamo così. Davide da Venezia e poi Flaviano da Milano. Davide, buonasera. Sì, buonasera, buonasera. Niente, io intervenivo a proposito dell'Inter, del presunto fatto che sia effettivamente già fuori dalla lotta scudetto. Lei cosa dice? Io dico che sì, a vedere adesso chiaramente sì. Il problema è che abbiamo anche l'esempio della Roma delle annate scorse, in cui ha sempre fatto grosse rimonte, e io sono interista, sì. Pertanto le ho subite e spererei in questo caso magari di riuscire a farne una. Anche di fare la Roma. No, cioè di fare la Roma con quel punticino in più che potrebbe portare anche allo scudetto. E adesso comunque secondo me è stata fatta una scelta che è quella conscia o inconscia di privilegiare innanzitutto il mondiale per club e poi eventualmente anche il passaggio del turno in Champions e un'eventuale comunque cavalcata europea, diciamo, perché anche a proposito del discorso delle colpe di Benitez. Però Davide, io non vedo un'Inter competitiva a livello europeo. Al momento no, però infatti con quest'Inter qui era opportuno scegliere o una o l'altra. È possibile che quando ricomincia la Champions le cose cambino, sì. E sappiamo che quello che è adesso potrebbe non essere dopo e potrebbe, cioè se minimo si comincia un po' a ingranare, sì. Comunque certo che adesso parlare di un Inter contro un Barcellona o un Real Madrid può risultare abbastanza difficile, scontato, l'esito, diciamo. Ha visto che anche il Bayern di Monaco che vi ha conteso la Champions League sta andando malissimo in campionato. Possono essere effetti di una stagione stressante, di allenatori che ti chiedono tutto come nel caso dell'Inter e di Mourinho, possono essere vere, anzi sono certamente vere tutte queste cose. L'aspetto più preoccupante è che io non vedo l'Inter, cioè è vero che mancano tutti questi giocatori, però ripeto quanto dicevo prima, se al Barcellona togliamo 5-6 titolari probabilmente avremo un Barcellona di qualità inferiore, certamente però avremo il Barcellona come stile, come gioco, come impianto. Stesso discorso secondo me si può fare per il Real Madrid, si può fare per... A parte il fatto che tutti questi infortunati mi sembrano un problema tipicamente italiano, cioè una caratteristica del calcio italiano. Non so se avete fatto caso, ad esempio a Madrid, ne abbiamo parlato spesso con Filippo Maria Ricci, lo faremo anche dopo, i giocatori hanno fatto il mondiale, hanno fatto una stagione stressante, eccetera, eccetera, ci sono tutti. In Inghilterra lo stesso. Al Barcellona lo stesso, sono tutti lì, hanno vinto il mondiale, eppure, ben per loro, ma non mi pare abbiano grossi problemi di infortuni. Qui invece... infortuni come piovesse. Questo rimane abbastanza misterioso per me da capire, poi vedo magari il campo di Verona e magari qualche idea mi viene, però comunque è una statistica di cui tenere conto. Dicevo, vedo mancano tutti questi giocatori, ma non vedo l'Inter non ha una faccia, mentre altri grandi club europei che probabilmente lavorano con più tempo, lo stesso allenatore, così via, insomma tutti hanno un volto a prescindere dalle assenze. L'Inter in questo momento non capisco, non riesco a capire che tipo di squadra sia, e questo secondo me è l'aspetto veramente preoccupante, anche perché, e torno su un tema che mi è particolarmente caro sull'argomento Inter, resto convinto del fatto che Benitez abbia avuto troppa fretta a non smontare, probabilmente perché ne sentiva il peso, quanto aveva costruito Mourinho, cosa che Mourinho rispetto all'Inter di Mancini non aveva fatto, ed è questa la ragione principale a mio parere. Flaviano, Milano, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Volevo parlare in merito dell'Inter. Allora, intanto nell'Inter sono state fatte delle scelte, a mio punto di vista, sbagliate. No? Nel momento in cui Maicon e Milito avevano mercato, erano da portare a casa meglio possibile di quello che dava il mercato, dare fiducia magari a un Santon che secondo me è molto buono. È un po' sparito, no? Anche secondo me, ma è un po' sparito. E poi il Balotelli, se gli fai 5 anni di contratto a 3-4 milioni, resta all'Inter. Sì, punto. Sì, seconda sì, cosa... Sì, sì. Sono d'accordo, con lei su questo. Seconda cosa, il Benitez, dopo Mourinho, assolutamente, non, con tutto rispetto di Benitez, non ha il carisma, non ha la forza manageriale, e non ha quella grinta di essere tutti i secondi sulla partita. L'entusiasmo che quando fa un gol o quando vince Mourinho, io da Benitez non l'ho visto. Nell'Inter, che è una società grandissima, rispettosissima, eccetera, eccetera, ha bisogno di una particolare gestione. Allora glielo dico io, perché siccome sono stato presidente della Triestina, sono Tonellotto. Quindi, lei è Flaviano Tonellotto. Allora, secondo me queste sono state delle scelte abbastanza. Poi Oriali, secondo me, era una persona che dava un giusto equilibrio. Attenzione, questo è un mio parere. All'interno di una società come Ma è condivisibile. Cioè, è un parere che è un'opinione che io condivido. Mi pare averlo detto anche molte altre volte. Insomma, avrei smontato. Ci voleva molto coraggio. Lei, con un passato da presidente, lo sa bene. Ci voleva coraggio a smontare il giocattolo il giorno dopo la finale. È anche vero che il capo dei giocattolai era andato via il giorno stesso della finale, no? Con la macchina del Real Madrid. Quindi l'Inter di Mourinho è finita lì, è finita quella sera, ed è evidente. Ci voleva il coraggio a smontare la squadra, quindi Milito, vuoi andare ai mercato? Ciao, vai. Maicon, vai. Chi vuole andare, vada. Riparto da una squadra diversa. È chiaro che ci voleva molto coraggio. Che hanno tutto l'entourage dell'Inter, che io qualcuno ho conosciuto, ma bastava fare tre scelte, contratto a Balotelli e prendere 3-4 giocatori. Allora o il Benitez o qualcuno, io oggi all'Inter vedrei solo Zenga, tanto per dire, punto. Sì. Ecco, io oggi, ha capito, con l'esperienza a traghettare lui, però. Ma non lo so traghettare, perché se Zenga gli dà in mano un giocattolino, insomma, all'estero qualcosa ha fatto. Sì. In Italia, vabbè, c'è stato il periodo di Zamparini, però con tutto rispetto di Zamparini, allora quest'anno il Palermo ha un fuoriclasse, forse due, con l'altro Ilić. Miccoli sta rendendo, in attacco è fortissimo. Allora, per quanto concerne invece lo sciopero, allora io consiglio a molti giocatori, soprattutto le persone serie, perché ce n'è tanti di furbi, ma molti furbi, no, gli consiglio di essere un po' più umili e di affrontare il problema, no, perché siccome nel mondo del calcio a livello mondiale ci vive, ci lavora e ci soffre il 60-70% al mondo della popolazione mondiale, allora di avere un po' più di umiltà e cercare di trovare una soluzione, perché così mi sembra sì. Questo ha ragione, ma in valore assoluto, in valore assoluto è una questione di categoria. Ci sono molte situazioni in molte società, soprattutto in C1, C2, sì, anche in Serie B e anche in Serie A, sì, che non prendono stipendi, sì, e allora lì vanno capiti. Sì. Però mi creda, io ho avuto esperienza che con molti giocatori, anche che prendevano dei bei soldoni, hanno preso fino all'ultima lira dopo che mi hanno rubato la Triestina, no? Che se hanno un raffreddore è una giornata storta. È chiaro. Questo ragionamento è chiaro. Qui siamo però di fronte a un problema di categoria e quindi certamente i giocatori, chiedere loro atteggiamenti più responsabili, questo è ampiamente condivisibile. Io la ringrazio, Flaviano Tonellotto, torna a trovarci quando vuole. Microfono aperto. Io però devo lanciare il traffico, quindi se mi aspetta dopo il traffico bene, altrimenti non ce la faccio. Traffico e poi ci risentiamo e sentiamo l'ultima battuta. Strade in diretta. L'autostrada del Sole è chiusa tra Cassino e Ceprano in direzione di Napoli per il ribaltamento di un camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono code di 5 km per le provenienze da Roma. Altrove permangono code di un chilometro sulla A10 Genova Ventimiglia tra Celle Ligure e Savona verso Ventimiglia, anche in questo caso dopo un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante. Altrove è intensa la circolazione provenendo dal Brennero sulla A22 e si rallenta tra Trento Centro e Affi in direzione di Modena. Traffico intenso anche attorno a Milano sul tratto urbano della A4. È tutto, torniamo tra mezz'ora. A tempo di sport. Luca Fabiano Tonellotto voleva dirmi un'altra cosa, mi pare. Sì, allora, in merito, per quanto concerne il discorso infortuni, sì, no, è assodato che con questo ritmo di partite, no, il fisico ha bisogno di essere trattato e considerato in base allo stress che vanno incontro, in base se fanno ogni tre giorni, poi fa la partita, poi c'è il campionato europeo, fa il ricambio, però il giocatore, se tu vuoi fare un ricambio di Ibrahimovic, è dura. È impossibile che dura. Ecco, allora, secondo me bisogna inserire, come io avevo cercato a Trieste, che poi manda un po' così, no, preso in giro. Allora, l'importante è la gestione della vita e dell'alimentazione del giocatore. Sì. Attenzione. Sì. Questa è la base, poi ovvio proporzionato agli impegni, perché tu lo alleni pensando di tirargli fuori il massimo, lui ti dà il massimo, ma poi al minimo imprevisto salta, sì, e sì, i muscoli, sì, si inseriscono tossine e spaccano i muscoli. Certo, equilibrio estremamente delicato quello del giocatore professionista, ma proprio perché è una vita che ti porta al limite, sia dal punto di vista strettamente fisico che dal punto di vista del collegamento tra fisico e mente. Insomma, scendi dall'aereo, fai il viaggio di 8 ore, scendi dall'aereo, ti alleni, giochi, prendi un treno, vai a giocare da un'altra parte, e tutto sempre andando alla massima velocità. È indubbio, io condivido quanto si diceva prima, lo sportivo professionista è una persona a rischio, certamente non è una persona che fa una vita sana. Ho anche un messaggio di un medico che scrive, mi permetto di dirle che finché caricano la forza negli allenamenti a scapito dell'elasticità li rompono tutti, e questa è un'altra sensatissima chiave di lettura. Continuo a domandarmi perché il problema degli infortuni seriali e dei lungodegenti sia in questo particolare momento storico essenzialmente un problema italiano. Luigi da Bari, buonasera. Buonasera. Volevo riprendere un attimo il discorso della Roma. Sì. Perché non riesco a darmi spiegazione, nel senso che non posso pensare che giocatori del calibro di De Rossi, Totti, Borriello, Vucinic, eccetera, possano non trovare motivazioni per i problemi societari, eccetera. Cioè io vedrei sotto un'altra ottica il 2-2 di Verona. Secondo me Ranieri ha semplicemente cercato di prendere i tre punti, magari facendo turnover in vista del turno di Champions, e l'ha fatto non avendo magari quei ricambi che gli danno la possibilità di farlo, tipo Adriano, semplicemente questo. Cioè sì. non riesco a spiegarmi anche la stagione della Roma, cioè non è che la Roma fa 6-7 risultati utili consecutivi, poi all'improvviso si ricorda situazione societaria che non va bene. Ma è una squadra che va, ma si tratta di capire la ragione per cui è una squadra che va avanti con un andamento estremamente sclerotico, vive di grandi momenti di euforia, di grandi momenti di depressione in continua alternanza. Credo che l'inserimento di ieri di Adriano sia stato più grosso modo una mossa politica, no? Dopo tutto quello che si è detto in settimana. Il problema è tutto quello che si dice in settimana a Roma, perché credo che la settimana per la Roma, i giocatori, l'allenatore, l'ambiente sia ben peggio della partita della domenica. E questa forse è la spiegazione di fondo. A questo punto io oggi avevo voglia di parlare con Harry Potter quello vero, non la tornata di Harry Potter quello vero. Poi ho scoperto che Harry Potter è stato battuto. C'è chi gli ha rubato la bacchetta. Allora, noi vorremmo organizzare un banchetto per circa 200 persone. Scusi, ma lei da dove chiama? Sankt Moritz, Svizzera. Ragazzi, ma vi rendete conto? A Natale vi porto San Moritz! Il matrimonio è fondamentale. È il momento in cui due anime si uniscono per... una famiglia. Un conto correndo, papà. Guardi che noi qui a St. Moritz siamo abituati a cose molto chic. Ah, banda del curaggioni! Dimmi la verità, ti piacciono un po'? Sei troppo... troppo? Troppo soda! Quel ramo del lago di Como dove abita Giorgia Clooney. Tra moglie e marito devi mettere il dito. Ma prima... Dai, non posso credere che ti sposi quello. Quello è il mio fidanzato. Sì, ma tu ami me. No! Lasciate la foto! La nonna di Heidi. C'è qualcuno nell'armadio. Chiedo la prossima. Vedi che è arrivato! È il cocchiere del drago alla balena! A balena, ritacciami l'occhio! Chi ha rubato la bacchetta a Harry Potter è Massimo Boldi, con a Natale mi sposo. Ciao Massimo, grazie. Ciao ragazzi, come state? Non c'è male, hai rubato la bacchetta a Harry Potter perché se andiamo a guardare gli incassi per copia distribuita del tuo film, spezzi la bacchetta di Harry Potter. Ma guarda, devo anche darti una bella notizia, che proprio ieri sera, sabato, sì? Abbiamo addirittura superato di parecchio Harry Potter, superato. Abbiamo fatto 750.000 euro di incasso contro i 600.000 di Harry Potter. Il maghetto può andare a farsi friggere. È una soddisfazione, soprattutto perché questo è un film internazionale, un film che in tutto il mondo ha avuto un grandissimo successo, ma anche da noi. Però è da capire perché poi alla fine il pubblico italiano preferisce il cosiddetto cinepanettone. Ecco, hai capito. Sì. Adesso poi ovviamente io ho fatto l'aperitivo natalizio. Arrivano gli altri adesso, piano piano arriva il mio amico De Sica, arrivano anche gli altri film. Sì, mi viene anche voglia di chiederti, tu lo sai benissimo, quando tornerete a lavorare insieme. Mi viene anche voglia, però non voglio rubare lavoro a maestro d'assisti, insomma. È una domanda che continuano a farmi, mi dicono tutti, anche su Facebook, ci sono gruppi insieme Boldi De Sica, però voglio dire è un po' complicato, può anche darsi. Io ho dato una risposta pragmatica durante la conferenza stampa, ho detto se Fini torna da Berlusconi forse Boldi torna da De Sica. È una battuta quella, chiaramente, capito? Somminga se è possibile, la prima possibile. Non lo so. Senti Massimo, io volevo chiederti invece anche delle cose di pallone, ma prima il pallone cinematografico, l'allenatore del pallone, mezzo destro, mezzo sinistro, presidente del Borgo Rosso, ci sono molti film che trattano l'argomento, poi ci sono anche i film inglesi, no? Da Hooligan al Malenetto United, che è un film recente. Tu quale filone preferisci? Qual è il tuo film preferito in argomento pallonaro? Ma in argomento pallonaro personalmente Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia e Italia Celeste, che è un film dell'89, di 30 anni fa, però è un film che insomma specialmente per Roma e dintorni è rimasto veramente un film cult proprio. E a me piace da morire anche il Totti attore. Totti attore vedo che si sta sviluppando bene, credo che magari prima o poi freghi il posto magari a Cipolla, probabile. Senti, ma rifaresti un Fratelli d'Italia bis? Sì, però bisognerebbe avere, guarda, quando quest'anno hanno proiettato Benvenuti al Sud, e Benvenuti al Sud ha avuto un successo straordinario, sì. Però alla fine diciamo che l'argomento è quello lì, gira in gira, ma è quella roba lì, non è che è tanto. Ricordo che l'ha trasferta da milanista a Roma, sono lupacchiotto. No, io devo dire che sono milanese, però sono lupacchiotto. Questa era la battuta. Che ti avevano dipinto la lupa sul petto, ricordo, ti avevano tatuato la lupa sul petto, lo ricordo bene. E quanto al tuo Milan, non c'è Harry Potter, ma Ibracadabra, per dirla alla milanese, le Ancamei. Ma insomma, mi sembra che da quando è arrivato Abraham, insomma, il Milan sta camminando abbastanza bene, perché oltretutto vedo che siccome lui corre, anche gli altri corrono appeso, perciò devono andare per forza. Questa è una grande verità, Questa è una grande verità, perché insomma ha restituito, sembra, la voglia di vivere calcisticamente anche a Gattuso, gente che è lì da una vita e che non ci credeva quasi più. Certo, infatti è proprio così, infatti. E comunque stiamo andando bene, io sono milanista sfegatato, anche se poi c'è state delle stagioni un po' deludenti, ma questa stagione per il momento va bene, poi speriamo che non mollino le braghe, perché no, insomma. Tanto sabato, prossimo weekend tutti al cinema, perché tanto c'è sciopero. No, ma poi non il prossimo weekend, adesso c'è anche la festa, no? Giusto. È preventivo, poi dopo c'è l'8, insomma siamo proprio dentro, in pieno alla festività pre-natalizia e quasi natalizia, insomma. Massimo, voglio chiederti ancora due cose. La prima, quanto ti sei divertito a fare Natale Mi Sposo? Ma più che mi sono divertito, mi sono infreddolito tanto, perché siccome l'abbiamo girato, sai che l'ho girato dove c'è un santo particolare, San Moritz. Sì. Però questo santo è un santo che è sempre caldo, perciò lì ci sono da 20 e 25 sotto zero sempre. Sì. E di conseguenza ci siamo divertiti, ma insomma avevamo anche gli attributi maschili che erano piccolini. L'ultimo... Però insomma è venuto bene, poi alla fine ciao. Sì. Sul lago Guacciato abbiamo girato tantissime scene, quelle sul deltaplano è stata una tragedia, però insomma. L'ultima cosa che volevo chiederti, passando dal freddo di St. Moritz, nella tua carriera, non so se vuoi rispondere, ma l'attrice che ti ha fatto più bollire il sangue nelle vene qual è stata? Loredana De Nardi. Chi? Non ho sentito bene. Loredana De Nardi. Sì? Sì, è quella che lavora con me, ha fatto Matrimonio alle Bahamas e ha fatto La fidanzata di papà. No, per bollire il sangue, perché è una brava attrice, è un'attrice brillante, è giovane. Però sinceramente devo dire che Nancy Brilli è la numero uno, ecco. Massimo, grazie. Ciao ragazzi, un abbraccione, in bocca al lupo a te, a Natale Mi Sposo, e mi raccomando, pensaci a ricomporre la coppia Berlusconi Fini, Boldi De Sica, per carità. Grazie Massimo Boldi. 800 24 00 24, adesso ci fermiamo ma poi torniamo qui. Ma questi che stanno facendo? Si ribellano. La rivolta ha attraversato lo stretto. Dopo la Sicilia, anche la Calabria si sveglia e inizia a ribellarsi alle mafie. Ma non è un pianto, è un grande urlo di rabbia. Nella punta dello Stivale è cominciata la primavera della società civile e Radio 24, dal 6 dicembre, seguirà le rondini della rinascita calabrese. E Christmas Cornucopia, l'album per le tue feste nei migliori negozi di dischi. Cerchi un partner tecnico leader nel settore degli impianti tecnologici? Con oltre 20 anni di esperienza, Altin offre soluzioni efficienti progettate sulle tue esigenze. La nuova proposta Global Service per il contenimento dei costi di gestione dei patrimoni immobiliari fa di Altin un'azienda da conoscere. Sono Paola, ho una pasticceria. Io sono Marta, consegno a domicilio i dolci di Paola. Ho scelto Parla 2 di Vodafone Partita IVA, così ho due telefoni. Uno per lei e uno per me. Due numeri che si parlano gratis. Uno per lei e uno per me. E ho chiamate incluse verso tutti, così risparmio e lavoriamo meglio. Tutte e due. Se hai un'attività, passa a Parla 2 di Vodafone Partita IVA. Tutto quello che ti serve a soli 35 euro al mese e senza tassa governativa. Vai su Vodafone.it o chiama l'800 127 777. Vodafone. Il campione! Maglia rossa, stivaletti neri, guanti in pelliccia, non si separa mai dal sacco. Slitta sul ring, Klaus Santa! E alla vostra destra, divisa bicolore, a due facce, manda tutti in crisi. Dall'Europa, Mister Euro! A Natale abbatti i costi. Scegli Mailboxes Etcetera per spedizioni puntuali e imballaggi sicuri con il miglior rapporto qualità-prezzo. Mailboxes Etcetera, un mondo di servizi al tuo servizio. Cerca il negozio più vicino su mbe.it. Con il gioco pubblico lo Stato garantisce sia il divertimento sia le regole, in modo che non si crei l'illusione e il rischio di un facile guadagno. Un gioco infatti diverte se mantiene i requisiti di svago, suggestione e moderazione. Come la Lotteria Italia, uno dei giochi più amati dalle famiglie italiane per la sua formula semplice e immediata. Con un biglietto da 5 euro ci si può regalare un sogno da 5 milioni e concorrere ai premi giornalieri e settimanali chiamando da casa. Per telefonare occorre essere maggiorenni. Giochiamo pure in famiglia, ma ricordiamoci sempre di tutelare i minori. Ugo, ma te l'aspettavi un regalo così? Con Sky Christmas Box hai 10 canali di cinema in HD, più di 60 canali per tutta la famiglia. E in più in regalo hai tutto il campionato di Serie A in HD. Ugo, tutto a 29 euro al mese. Ti ho lasciato senza parole, eh? Ugo, ma tu parli! Miracolo! Un Natale così non si era mai visto. Regalati Sky e Sky ti regala il calcio a soli 29 euro al mese. Chiama 02 70 70 o vai nei punti vendita. Info su sky.it. A tempo di sport. Io mi sono divertito molto a parlare con Massimo Boldi, molto più di quanto non faccio certe volte nel parlare ossessivamente di calcio. Non c'erano altri fini, non era Marchetta, come maliziosamente e inopportunamente sottolinea qualcuno, o quant'altro. Massimo Boldi è uno dei massimi esperti italiani di cinema, tra l'altro, se non lo sapete. E poi tutto sommato non sono di quelli che fanno gli schizzinosi a fin d'autore, eccetera. Vado al cinema se mi diverte, vado allo stadio se mi piacciono le partite o mi piacciono gli interpreti. La penso un po' così. 800 24 00 24 è il numero verde. Sono milanista e oltre che ad Atene ero ad Istanbul. Benitez ha le sue capacità e come anche personalità. E il Liverpool non era Real. Questa che fa l'ascoltatore è fredda cronaca, come si può dire. Era una squadra, quella costruita da Benitez, però negli anni e con i suoi metodi. L'Inter non è una squadra costruita da Benitez, cui non è stato permesso di portare a Milano i suoi metodi, la sua rete di osservatori, senz'altro molto, molto numerosa, molto costoso, un sistema estremamente complesso, però o prendi tutto il pacco oppure Benitez diventa forse un allenatore come gli altri. Castrese da Napoli, poi Davide, provincia di Pavia. Buonasera, Castrese, buonasera. Buonasera. Dica. Salve, dottor Genda. Prima cosa, complimenti per la trasmissione, anche grazie. Se da poco che la seguo, la sento su Facebook, va bene. Volevo esaltare un pochino la situazione della mia Lazio. Sì, fa bene. Bene. Perché alcuni maligni hanno detto che la Lazio ha vinto per demeriti dell'Inter. No, la Lazio, ma maligni incompetenti cattiva fede. La Lazio ha vinto perché ha giocato una partita meravigliosa. Ha giocato una partita meravigliosa. Con un'altra Inter magari non avrebbe vinto. Con questa Inter, insomma, sarebbe stato un furto con scasso se l'Inter avesse agguantato il pareggio nel finale. Corpassa montagna, dicono a Roma. Sì, ed è anche una soddisfazione personale, anche perché la dirigenza in cui lavoro in officina e tutta la classe dirigenziale sono dell'Inter, quindi sono l'unico operaio laziale all'interno della fabbrica. E quindi domani va a lavorare con un sorriso così, con la sciarpa, con la maglia. E comunque penso che se anche ci fosse stato il Real Madrid in quella situazione, non ce n'era per nessuno, assolutamente, anche perché se è paragonabile, mi dà molta impressione della Lazio di Eriksson. Sì. La guarda, ho vissuto pienamente. Sì. E c'è lo stesso entusiasmo della Lazio di Zeman. No, ma certamente, certamente. Però non ci allarghiamo, perché col Real Madrid, quello vero, non quello che ha preso 5 pere dal Barcellona, o col Barcellona, insomma, con un'altra avversaria o con un'altra Inter, non so se sarebbe finito allo stesso modo. In questo senso si può dire che l'Inter ha fatto la sua parte nel presentarsi in queste condizioni all'Olimpico. E certo è che la Lazio, insomma, ha giocato una grandissima partita. Il domandone è per quanto tempo ancora riuscirà, quanta benzina avrà ancora per mantenere questi ritmi e questi livelli. Credo siano risposte per le quali si dovrà attendere non moltissimo. Secondo me il mese di gennaio sarà cruciale per capire effettivamente quanto può valere la Lazio, ma per capire anche, sono molto curioso su questo punto, per capire anche quanto possa effettivamente valere la Juventus, che io continuo a considerare ragionevolmente tra le candidate allo scudetto. Se la Juventus a gennaio riuscirà comunque a mantenere queste condizioni di forma, e soprattutto se sul mercato di gennaio sapranno agire bene, prendendo un paio di giocatori importanti, allora io credo che la Juventus possa essere da corsa già per questo titolo. Stasera vediamo cosa succede a Catania, poi magari prende 4 gol e cambiamo tutti i ragionamenti. Però la Juventus la vedo come una squadra da corsa, sempre che riesca a mantenere la condizione, perché è un'incognita. Insomma, le squadre del Neri spesso sono partite fortissimo per poi avere dei problemi a gennaio-febbraio. Se questo non accadrà, la Juventus è da corsa. Davide, provincia di Pavia, buonasera. Buonasera, dottor Genta. Volevo parlare dell'Inter, però prima le lancio una provocazione, sì, diciamo a livello arbitrale. L'anno scorso abbiamo avuto Tagliavento in Inter-Sampdoria ed è stato giudicato bravissimo perché ha applicato il regolamento alla lettera. Pare che quest'anno per il Milan il regolamento sia un altro, perché abbiamo avuto lo stesso Tagliavento a Milano nel derby. Sappiamo com'è finita, ma sappiamo che Gattuso, Ambrosini e soprattutto Ibrahimovic dovevano essere espulsi, ma Tagliavento si è dimenticato del regolamento. È cambiato il regolamento o la sfuriata di Gagliani alla prima giornata fa sì che adesso ci sia un condizionamento? Perché anche ieri sera mi sembra che il primo gol di Ibrahimovic fosse vistiato da un fuorigioco di rientro che nessuno ha rilevato. Sì. Stranamente, proprio Ma Davide, motivazione, però lei sa benissimo, Gagliani ha fatto un casino dell'accidente. Ma il casino lo fanno un po' tutti, non solo Gagliani. Certamente questo ha un peso, come ha un peso per il casino che fanno gli altri, come probabilmente aveva un peso per il casino che hanno fatto i dirigenti dell'Inter quando c'è stato il bisogno di farlo. È un giochino che conosciamo fin troppo bene, no? Io dico che quando uno è in testa alla classifica, sono ragionamenti che sono fatti anche a proposito dell'Inter negli anni passati, un po' di vento favorevole, ma non voglio dirlo in maniera maliziosa, un po' di episodi fortunati, diciamola così, ci stanno e fanno parte del primato in classifica, sono quasi parte stessa del primato in classifica. Assolutamente condivisibile la cosa, peccato che un giocatore del Lecce si becca 5 giornate per lo stesso fallo, per cui Ibrahimovic becca un cartellino giallo. A prescindere da quello, parliamo di Inter. Benitez avrà magari qualche colpa insindacabile, perché se una squadra non riesce ad esprimere un certo gioco, però non riesco a capire quale colpa possa avere l'allenatore se con i suoi schemi, con le sue idee, mette l'unica punta che la società gli ha dato a disposizione in quest'anno in condizione di segnare in 5 partite differenti, 5 gol praticamente a porta vuota, e lui le sbaglia tutte e 5. Purtroppo la società doveva comprargli Scully quantomeno come, diciamo, attaccante di riserva, non hanno dato via Balotelli, che secondo me doveva andare via, e perché? Non hanno, perché, secondo perché lei... chi getta la maglia non può stare nella stessa società. Non, i 18 anni non sono una giustificazione. Sì. Chi getta la maglia deve andare via, appunto. Sì. Io la vedo così. Sì, sì, no, ma questo è condivisibile. Dovevano comprarne quantomeno un altro di riserva, tant'è vero che oggi l'Inter non ha punti. Perché lei sa benissimo che l'anno scorso in queste condizioni, no, Milito in questo momento è stato estremamente fortunato, Milito non, a Milito non è venuto neanche il raffreddore l'anno scorso, quest'anno praticamente non ha mai giocato. Fosse successa questa situazione l'anno scorso, non c'è Milito, non c'è Milito, non c'è Eto'o, c'è Balotelli. E quest'anno chi c'è? C'è Pandev. C'è Pandev a fare la prima punta, che non è neanche il suo mestiere. Ci sono Coutinho e Biabiani. Perché cinque volte in cinque partite differenti. Le faccio solo l'esempio di ieri. Il Milan ha risolto la partita dopo tre minuti grazie a un gol di un giocatore solo davanti alla porta. L'Inter ha avuto la stessa identica occasione, precisa, uguale, però la palla è finita sui piedi di Pandev, Pandev l'ha buttata fuori, abbiamo assistito a tutta un'altra partita. Sì. Il calcio è fatto di episodi, sì. Ma se una squadra si pone nel campo, e nonostante io non sono d'accordo sulla partita della Lazio, di Lazio-Inter come avete parlato voi, perché è vero che la Lazio ha fatto una grandissima figura, ma semplicemente perché Biabiani non è all'altezza di dar via un pallone e l'unico centrocampista veramente in forma si è fatto male dopo 20 minuti di partita. Sì. Abbiamo dovuto assistere ad un Inter che non è l'Inter, è qualcosa che cerca di sopravvivere. Ma il problema, Davide, è qual è l'Inter? Perché io non la vedo. Dico quanto dicevo prima. È chiaro che le assenze sono quelle, sono lì davanti a tutti, no? Sono giocatori importantissimi che sono venuti meno. Però quello che dico io è, primo, perché questa fretta da parte di Benitez di smontare completamente la squadra che aveva costruito il suo predecessore, cosa che Mourinho non aveva fatto, perché questo? Probabilmente la risposta è perché l'ombra del predecessore era così ingombrante che Benitez ha detto: beh, adesso io mi chiamo Benitez, ci sono io, si fa come dico io. Il problema è che questa non è né più l'Inter di Mourinho, non è ancora l'Inter di Benitez, chissà quando e se lo diventerà. È qualcosa che non ha un'anima, che non ha una faccia, a prescindere dagli interpreti. L'Inter di Benitez all'inizio del campionato era una squadra che attaccava 4 gol a tutte quelle che incontrava, quando aveva gli attaccanti che segnavano, quando aveva la possibilità di esprimere un certo tipo di gioco, poi mano a mano li ha persi tutti, ma all'inizio noi abbiamo passato il turno di Champions segnando la bellezza di 12 reti, cosa che non si vedeva da anni all'Inter, né con Mancini né con Mourinho né con nessun altro, stravincendo praticamente le partite. Il primo tempo con il Tottenham era spettacolo di calcio, poi c'è stato un grandissimo errore di Maicon che ha praticamente aperto un'autostrada a Bale, ma il primo tempo di Inter, io invito tutti ad andarlo a vedere, perché si vede un gioco, una squadra che noi a Milano in Champions nel primo turno non l'abbiamo mai vista. Quindi morale per tirare le somme, lei è soddisfatto del lavoro di Benitez, andrebbe avanti così in attesa del recupero degli infortunati? Del lavoro, aspetto che arrivino, che ritornino i giocatori, dopodiché vediamo se la partita è ancora chiusa, è già chiusa o è ancora aperta, perché io sono convinto che l'Inter a livello di gioco non è... tutte le partite che ha giocato ha sempre fatto almeno 6-7 occasioni da rete. Venerdì sera Pandev poteva segnare il gol del pareggio, oppure è capitato poi alla fine sui piedi di Cordoba la palla del pareggio, sì. Nonostante la squadra che avevamo in campo, per cui nonostante la Lazio abbia giocato una grandissima partita. Ora vediamo, però ora vediamo come va il mondiale per club, perché penso che quello sia cruciale per tutte le strategie future, insomma, a partire da una fiducia allenatore che non può essere continuamente messa sotto condizione, perché questo di fatto accade. È una fiducia piuttosto fredda, non convinta da parte della società, non certa dell'opinione pubblica nei confronti dell'allenatore, quindi sarà cruciale per capire se c'è fiducia vera, e questo lo decideranno fatalmente i risultati, fiducia vera nei confronti di Benitez, se si interverrà sul mercato, per capire tutte queste cose. Dunque, io prima del traffico vi do una notizia invece. Ringrazio naturalmente Davide della provincia di Pavia, con cui ho chiacchierato volentieri. 800 24 00 24, se volete farlo anche voi. 349 238 6666, numero verde. Ugo che scrive: ma Milito si è involuto, è colpa di Benitez, non è che si è involuto, è infortunato, e comunque no, scordatevi una stagione di Milito come quella passata. È chiaro che quel è un giocatore meraviglioso, però stagioni come quella scorsa sono stagioni che possono capitare una volta nella vita pure di un grande attaccante come Milito. Volevo però darvi questa notizia, anche perché è storica: la Serbia ha conquistato per la prima volta la Coppa Davis, finale a Belgrado, ha battuto 3-2 la Francia. Troicki nell'ultimo singolare ha superato gli Odra 6-2, 6-2, 6-3, dunque 3-2 per la Serbia che vince per la prima volta la grande insalatiera. Ci fermiamo per il traffico. Luca dalla provincia di da Monza sarà il prossimo ascoltatore. Strade in diretta. Si continua a lavorare dopo il ribaltamento di un camion sull'autosole tra Cassino e Ceprano verso Napoli. Il tratto è ancora chiuso e ci sono code di 5 km per chi proviene da Roma. Altrove è rallentata con code la circolazione attorno a Roma e a Milano, rispettivamente sui tratti urbani della A24 e della A4. Rallentamenti per traffico intenso li segnaliamo sulla A22 del Brennero tra Trento Centro e Afi in direzione Modena e sulla A3 Napoli-Salerno tra Vietri sul Mare e Salerno per le provenienze da Napoli. Massima prudenza infine per chi viaggia sui settori di nord-ovest, nevica debolmente a quote basse tra Piemonte e Lombardia sud-occidentale. È tutto, torniamo tra mezz'ora. Promo 24. Da Poste Italiane nasce Poste Impresa, una rete di uffici dedicati con personale esperto in soluzioni su misura per tutte le esigenze di imprese, professionisti, associazioni e pubblica amministrazione locale. Oltre 500 uffici dedicati esclusivamente alle imprese per offrire servizi di gestione finanziaria, prodotti postali, bancari, assicurativi, di telefonia mobile, servizi online e articoli per l'ufficio. Gli uffici blu di Poste Impresa sono presenti su tutto il territorio nazionale, con personale in grado di fornire informazioni sui servizi per ogni specifico settore di attività. Per informazioni 800 160 000 oppure poste.it/posteimpresa. A tempo di sport. Luca, buonasera. Buonasera gente, buonasera. Salve. Salve. Dunque, telefono perché avevo sentito le ultime conversazioni fatte con i miei compagni di tifo nerazzurri, sì. Diciamo così. E d'accordissimo su quello che aveva detto l'ultimo ascoltatore per quello che riguarda Balotelli, perché io ero presente quella sera a vedere Inter Barcellona, quel gesto della maglia buttata a terra per è una cosa che non si perdona. No, assolutamente, e Balotelli può anche finire al Milan, ma la cosa non mi fa né caldo né freddo. Detto questo, tornando a quello che è successo in questi mesi, è chiaro che ci siamo trovati ad agosto la consegna da parte di Moratti di una squadra logora. Dovuta all'uscita di scena di Mourinho con tutto quello che ne consegue. Quello che mi chiedo, più che colpevolizzare Benitez, che vabbè ci ha messo del suo in diverse partite facendo qualche scelta tattica non delle migliori, mi chiedo però perché la società, una volta venduto Balotelli, non ha pensato perlomeno a rimpiazzare la mancanza con un giocatore, non dico di pari livello perché non c'è, però sì, prendendo uno che una volta entrato in campo potesse dare il suo contributo. Una volta uscivano Ibrahimovic e Adriano, entravano Crespo e Cruz. Sì, sì, sì. No, ma questo, adesso esce questo è evidente. Questo è evidente. Ed è, insomma, Moratti ha ritenuto. Non so se abbia battezzato questa stagione, lo dicevo prima, ma è un pensiero che può venire, un pensiero che si può fare. Se abbia battezzato questa stagione come comunque una stagione di transizione, nella quale era più importante forse raddrizzare i bilanci e mettere a posto i conti e così via, tanto insomma non era aria di rinnovamento della squadra, non era il momento di rinnovare la squadra. Se abbia fatto questo tipo di ragionamento prendendo di conseguenza magari anche un allenatore di passaggio come potrebbe essere Benitez, oppure se effettivamente era convinto che questa squadra fosse ancora competitiva, che avesse la possibilità di allungare il ciclo. Sono cose a cui può rispondere solo Moratti. Certamente i fatti sono che Balotelli è andato via, è un giocatore che l'anno scorso molto spesso, per caratteristiche anche per modo di giocare, era un giocatore in grado di entrare e cambiare la faccia di una partita, era un giocatore estremamente importante al di là dei minuti giocati, che non erano molti, come sapete, però era un giocatore in grado di servire a mille cose e non è stato rimpiazzato in alcuna maniera, quindi è una falla dell'organico che è lì ed è una delle ragioni, non è mai una sola ma una serie di ragioni per cui l'Inter fa fatica a zero invece il Barcellona, cioè fa fatica per il viaggio, va in treno, poi in pullman, poi manca solo le biciclette. E noi siamo qui tutti a dire quanto è stressante la vita del calciatore moderno, quanto è alto il rischio di farsi male. Beh, questi scendono dal pullman, se non ricordo male, 10 minuti prima di cominciare a giocare, entrano in campo e asfaltano in questo caso la asfaltano in questo caso l'Osasuna. Filippo Maria Ricci, buonasera. Buonasera. Allora non bastano neanche le intemperie, i viaggi, le gite problematiche per fermare il Barcellona? Beh, l'anno scorso un po' era bastato con la rinuncia a Milano, sì, contro l'Inter per il in pullman per la nube vulcanica. Sì, ricordo. E lì avevano pagato caro. Ricordo. Ieri no, l'avversario era molto diverso dall'Inter di Mourinho. Ci hanno messo un po' di buona volontà, però Messi, che aveva segnato per 10 partite consecutive, si era fermato temporaneamente nel 5-0 con Real Madrid, ieri ha ricominciato, doppietta e via, sì, un assist. C'è stata ovviamente la settimana della grande sbornia catalana e della depressione madridista. Il Real Madrid ha fatto, secondo me, quando affronti il Barcellona, ha commesso il peccato originale, cioè quella di voler andare lì e giocare a pallone con loro. Se vai lì, esatto, e vuoi giocare a pallone con loro e vuoi guardarli negli occhi e fare la sfida, che è più bravo, ti macinano. No, proprio non, in questo momento non ce n'è. Mm. Non ce n'è per il Real Madrid di Mourinho, che è una squadra molto seria, e non ce n'è per nessuno. Mm. Sì, infatti c'è un dato abbastanza interessante. Ieri sera Mourinho senza Higuain, tutti pensavano ovviamente, no, che giocasse con Benzema, come ha fatto per esempio al Camp Nou. L'ha lasciato in panchina, ha giocato senza centravanti e lo ha sostituito con l'As di Arra, giocando con i tre centrali a centrocampo. Sì. Qui ovviamente gli danno del blasfemo, però era quello che secondo me lui voleva fare al Camp Nou. Sì. Non ha avuto il, non so se il coraggio di farlo, insomma, per il peso della memoria storica del Real Madrid, e è finito sotto subito, perché Di Maria doveva fare il terzino, non è il suo ruolo, certo, lì certo, non copriva nessuno, certo, e anche i due in mezzo sono stati sconfitti dal solo immenso Busquets. Mourinho sta facendo conoscenza del vero grande limite di quando alleni il Real Madrid. Ricordo un giorno che disse: chi andrà a allenare il Real Madrid sarà un uomo fortunato. Magari sapeva già, era la vigilia della sua stagione del triplete, no? Sapeva già che sarebbe stato lui quell'uomo fortunato, però hai dei limiti. Qualche volta non puoi fare quanto vorresti, perché ti porti a spasso, ti porti dietro la patina della storia, tutto il peso di un'opinione pubblica che vuole vivere in una maniera sola. In generale, non solo del Real Madrid, ma anche di un paese, perché voglio dire, soprattutto tu adesso ti confronti con una squadra come il Barcellona, che vince tutto giocando anche a meraviglia. Allora, se tu arrivi e dici: va bene, io vinco qualcosa giocando male, ti può andare bene inizialmente, però Capello qua l'hanno mandato via due volte. Certo. Vabbè, la prima volta è andato via lui, però non è che fossero strafelici, e aveva battuto quel grandissimo Barcellona di Ronaldo, che aveva battuto molti record, tra cui il record di gol di Ronaldo, sì, in una Liga. E quindi Mourinho cosa fa? Arriva qua e ha il suo metodo e si scontra con una realtà di un paese che tra l'altro ha appena vinto il mondiale giocando di nuovo un calcio meraviglioso, per cui diventa più complicato. Sì, l'hai visto in difficoltà in questa settimana, Mourinho? Sì, abbastanza, sì. Anche ieri sera è stato bello, perché lunedì in conferenza stampa ci ha detto che era una fatica facile da digerire. Ieri ha detto che contava solo vincere, perché dopo una fatica dopo una sconfitta difficile da digerire. Mi si è contraddetto, naturalmente, però guai a farglielo notare. No. Abbiamo sbagliato noi, abbiamo capito male noi. Certo, avete capito male voi. Capite mai niente di quello che dico? No, però era in difficoltà e si è visto anche ieri sera, voglio dire, noi parliamo spesso di Messi, grandissimi meriti a Cristiano Ronaldo, si è preso la squadra sulle spalle e l'ha fatta. Ecco, ma Messi, guarda, a me frulla da giorni nella testa un domandone, per la precisione da lunedì sera, no, quando ho visto il Barcellona passeggiare sulle macerie bianche, ma Messi in un'altra squadra sarebbe così grande? È chiaro che è una domanda retorica, no? Perché tanto Messi in un'altra squadra credo non lo vedremo mai, o comunque non lo vedremo per molti anni. Però lui è il simbolo del Barcellona. Pensi di sì? Lui è nato lì, 13 anni è arrivato lì, ha sempre giocato in quella maniera. È l'uomo del Barcellona, è la punta di diamante del Barcellona, è la stella del Barcellona. È creato dal Barcellona. Da un'altra parte, sarebbe in Argentina Messi. Non lo amano, non lo capiscono, non riesce a essere altrettanto decisivo. E quindi diciamo, darebbe, gli argentini la pensano come te, forse. Però, no, ma è un dubbio, è una domanda che mi faccio. Sì, no, io penso di no. Io penso che sarebbe decisivo anche in un'altra squadra. magari avrebbe bisogno di abituarsi, però Messi ha il piacere di giocare a calcio. Sì. Cioè, per lui è un vero piacere, lui fa fare solo quello. Sì. E fuori dal campo non è come Ronaldo, che ha una sua vita più o meno rosa o più o meno sì, no, sponsor locale, cosa. No. Ho capito, lui, massaggio, sì. Cioè, questo sì. Però giocare a calcio, però quello non è calcio, è un'altra cosa. Giocare quel calcio, hai capito, in quella squadra. Nell'Argentina, come tu dicevi, non è mai stato Messi quello vero. La mia domanda, ripeto, puramente retorica. Ma io sarei curioso di vederlo, me la giocherei però, diciamo, continuo a rispondere sì. Poi dopo magari mi sbaglio. Beh, possiamo fare lo stesso discorso anche con Guardiola, ovviamente. Sì, naturalmente. E lì magari è un po' meno ipotetica, eh? Sì, è complicata anche per lui sarebbe. Però ci sono delle qualità talmente grandi che per me prevalgono alla fine. Però ti dico, questa è la risposta alla tua domanda, opinione personale, punto. Filippo, io ti ringrazio. Buon grazie lavoro. A voi. Grazie Filippo Maria Ricci dalla Spagna, per noi, per la Gazzetta dello Sport naturalmente. Adesso ci fermiamo e poi torniamo con il basket. Partiremo ovviamente dal risultato già acquisito sulla partitissima di questa mattina, che poi di fatto partitissima sul campo non è stata, perché molte volte abbiamo detto vedremo come Milano giocherà a Siena, guarderemo quello più del tabellone, invece il tabellone è impietoso e la partita ancora di più. Ne parliamo dopo. Giorgio De Luca in redazione, Pietro Accorte in regia, ci sentiamo alle 8:30.